Io sono qui a condurvi per mano attraverso la selva oscura delle vostre rabbie, dei vostri odi, delle vostre umiliazioni. 24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Quel pestaggio che tanto si voleva negare in tutti questi 5 anni viene riconosciuto dalle sentenze, però viene detto che la giustizia non è in grado di definire chi siano stati i colpevoli. Adesso io mi auguro che il procuratore generale, che ci è stato così vicino in questa fase dell'appello, ricorra in Cassazione. Nel frattempo noi faremo causa al Ministero di Giustizia, perché ha preso mio fratello sano e ce l'ha restituito morto e in queste condizioni. Pure questo è stato il nostro processo, un processo alla vittima, un processo a Stefano. Siete stato voi che brucereste come streghe gli immigrati, salvo venerare quello nella grotta. Non siete stato voi col busto del duce. Guardate che non finisce questa questione, non finisce come è giusto che non finisca. Ma questo era al mattino, Ilaria Cucchi. Poi al pomeriggio che è successo? Ha incontrato il procuratore Pignatone, che però il procuratore di Roma ha detto anche parole di elogio ai suoi magistrati, i PM che hanno condotto il caso, e al che Ilaria Cucchi ha detto: vabbè, ma allora abbiamo perso tempo. Che brindate con il sangue di chi tenta di far luce sulle vostre vite oscure. Non siete stato voi che vorreste dare voce a quotidiani di partito muti come sepolture. E poi è partita questa campagna su Twitter, tutti che si fanno fotografare con la scritta "sono stato io a uccidere Cucchi". E questa vicenda supera l'idea del complottone che ieri Matteo Renzi ha lanciato, no? Sull'idea di qualcuno che sobilla in qualche modo le piazze e fa in modo di voler dividere il paese. Ieri questo ha detto Matteo Renzi, Magistrato, congiura su Dio, non sono stato io. Allora, alle 6:34 minuti, iniziamo 24 mattino con Lorenzo Nespoli in redazione, con Peter Bescapè in regia e con Renzi. Sentiamo Lorenzi, Se si vuole attaccare il governo ci sono tante altre strade, senza andare a sfruttare il dolore dei disoccupati, dei cassi integrati, dei precari, perché il mio cuore è con i disoccupati, con i cassi integrati e con i precari. Noi dobbiamo evitare un rischio che trovo un rischio pazzesco. È calcolato, studiato e progettato un disegno in queste settimane che vuole dividere il mondo del lavoro. C'è l'idea di fare del lavoro il luogo dello scontro. Calcolato, disegnato, studiato, progettato, è il complottone, amici, alle 6:35 minuti, questo è 24 mattino e che dire, apriamo il Parlamento? Ma sì, dai, apriamo. Adesso vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo più tardi, grazie. Allora, voglio subito salutare, come avete capito, i due elementi strutturali ancora sui giornali sono questi: il fatto di cronaca, il caso Cucchi e soprattutto la questione politica più generale con Matteo Renzi. Siamo con Massimo De Manzoni, vice direttore di Libero. Buongiorno e ben ritrovato, Massimo. Eccoci. Buongiorno. Così buongiorno. Come voglio salutare, svegliato da un minuto, ti abbiamo svegliato per caso? No, ma sono sveglio da ore. Ma da chi? Alessandro Robecchi, ma che sveglio. Buongiorno da ore. A tutti. Buongiorno. Complottone. Da dove vogliamo iniziare? Massimo, da dove vuoi iniziare? Vuoi iniziare dal caso, scegli tu, dal caso Cucchi o dalla vicenda Renzi complottone? La vicenda Renzi complottone forse interessa di più gli italiani. Sì, no? interessa di più, nel senso che è una cosa, insomma, no, in questi giorni ancora un po', insomma, sappiamo che si va sull'onda anche dell'emozione, eccetera, il caso Cucchi. Poi chiaro che tra qualche giorno in qualche modo scemerà l'attenzione su. No, il caso Cucchi è emblematico, peraltro, adesso dirò cose sgradevoli come al solito, cioè emblematico di una cosa che non riusciamo ad accettare in Italia, che possa anche non esserci una verità processuale che collima con anche con una verità intuitiva, fattuale, quella che sappiamo tutti, che nel caso Cucchi ci sia un colpevole che si chiama Stato. Penso che non ci sia più neanche Giovanardi che possa negarlo a un certo livello, nel senso che è chiaro che era nelle mani dello Stato. Ne è uscito morto e non si riesce neanche a dare una spiegazione precisa di quello che è successo, e quindi è evidentissimo che c'è un colpevole, si chiama Stato, e in sede civile lo Stato ha risarcito la famiglia per 1.350.000 euro, se non vado errato, quindi ha riconosciuto anche nella sostanza la sua colpevolezza. Poi però c'è un processo penale che deve accertare delle responsabilità penali individuali. E qui cioè, bisogna anche accettare che non ci sia l'assassino, che ci sia stata una catena di eventi che ha portato a una morte che rimane ancora abbastanza misteriosa, visto che non si dice neanche. Però non c'è un colpevole più colpevole. Che quell'infermiere l'ha uccisa, che quel carabiniere l'ha ucciso. Trascrivendo male il suo nome, quindi no, è chiaro che voglio dire, è chiaro che PM l'ha sbagliato. È chiaro che c'è qualcosa che può succedere, Italia, è chiaro. Insomma, non abbiamo questa cultura che la verità processuale e la verità con la V maiuscola non sai, però va accettato da parte della famiglia, è chiaro che è difficile accettarlo, però no, io sto parlando più dei giornali, più da parte dei giornali. Però Robecchi, effettivamente questa discrasia può succedere, effettivamente. Ma può succedere però siccome non stiamo parlando di 2000 persone, ma stiamo parlando di 12 imputati, e credo che il problema vero abbia un nome e un cognome, si chiama omertà, cioè di quei 12 nessuno dei 12 è stato abbastanza, mi verrebbe da dire uomo, anche se non è una cosa bella da dire, insomma non è stato abbastanza umano da parlare e dire come sono andate le cose. Se io capisco che ci può essere una discrasia tra la sentenza e la realtà, per carità, non sono nato ieri, però questo può succedere quando si tratta di un caso molto ingarbugliato, quando ci sono di mezzo 10.000 persone e non si sa chi è il colpevole, ma essendo le persone 12, in questo caso tra carabinieri, guardie carcerarie, infermieri, medici, eccetera, eccetera, secondo me qui si tratta di omertà mafiosa, cioè di questi 12. Ha detto, come l'avvocato. C'è un'altra possibilità, indagini fatte male, come spesso succede. Ilaria Cucchi dice così, ma il procuratore, pare che ieri, dopo che si è andata Ilaria Cucchi, i magistrati che hanno condotto il caso, sono due, siano andati da Pignatone a dire: oh, ci difendi o no? Perché qua abbiamo passato notte e giorno su questo caso, abbiamo fatto tutte le cose secondo coscienza e secondo. E quindi, ma questa non ci sarà mai un'ambizione, Robecchi. Però insomma, siccome si sa che a pensar male, insomma, si fa peccato, ma ci si azzecca, rilevo così en passant che le indagini vengono fatte male, soprattutto quando c'è di mezzo lo Stato come imputato. Sarà un caso, per carità. Dice, vai qua sei più complottone. Proprio, no, non è complottone. Purtroppo questo non è complottone, questa è la storia del paese, perché non credo che Cucchi sia l'unico caso in Italia. In Italia vengono fatte male spesso. Ma io credo che cronaca che non si risolvono, perché poi alla fine guardate che io credo che la sciatteria cioè quel carabiniere o quel poliziotto, non lo so, il primo che lo arresta e che scrive che Cucchi è un albanese senza fissa dimora, perché prende il modello compilato dell'arresto precedente di un albanese senza fissa dimora e non cambia, e non cambia i dati. Guardate che questo, cioè, è sciatteria. No, ma non è che qui senza fissa dimora si può ammazzarlo di botte? No, è che il giorno dopo il giudice voleva dare gli arresti domiciliari, come si fa in questi casi, ma ha visto il fascicolo, ha detto arresti domiciliari, è albanese, è senza fissa dimora, dov'è che lo mando? Lo avrebbero mandato a casa gli arresti domiciliari e non ci sarebbe parlato, non sarebbe parlato di questo caso. È il primo errore di una lunghissima catena di errori, che direi che i peggiori dei quali errori sono le botte, comunque. Su questo non c'è dubbio. Sì, certamente. Dopodiché il ragazzo stesso dice che è caduto dalle scale quando gli rivenono le quando ti menano le forze dell'ordine non è facile denunciarli. Su questo è così, cioè non è che uno va a dire purtroppo in carcere, immagino che capiti così, non ci sono mai stato, ma insomma da racconti di persone, cioè se succede questa cosa poi vai in infermeria, chi è stato su un caduto, tutti che cadono dalle scale in carcere, ragazzi, sono delle scale come le mogli picchiate, sono delle scale ripidissime nelle carceri. Comunque va bene, questa cosa vedremo come va avanti, però l'altra vicenda insomma è quella di Renzi, vogliamo sentire ancora Renzi che ha parlato di 20 anni persi con manifestazioni e proteste. Renzi: se abbiamo perso 20 anni è perché si è pensato che attraverso manifestazioni e proteste si potesse dividere in due il mondo del lavoro, dividendo magari l'Italia dei lavoratori e l'Italia dei padroni. Eccolo lì, insomma, si dividono. Qua, Massimo, voi sul Libero da qualche giorno avete dato enfasi a un video, c'è la battaglia dei video, siete i primi ad aver trovato questo video a dire è tutta una bufala, anche a Roma sono stati gli operai che hanno deviato dal percorso, sono andati contro la polizia. Poi ieri è partita il controvideo, il video in cui si sente un poliziotto carico, e lì parte la carica nei confronti degli operai. Ora, Massimo, anche qui scoprire poi cosa succede in una piazza, però che ne pensi di Renzi che dice che c'è un disegno per dividere le piazze? Ma Renzi, come sappiamo, si sceglie i nemici e si sceglie anche i toni con i quali affrontare i nemici. Ieri ha scelto il tono, il nemico ormai era chiaro chi era, ed era il sindacato, la CGIL, Landini. E quindi ha scelto un tono molto particolare, devo dire, perché è un cambio di passo nella strategia di Renzi, che fino adesso aveva parlato di gufi, che sono fondamentalmente animali innocui, no? Stanno lì, sperano che le cose si vanno male. Non mi toccare i gufi, che sono degli animali bellissimi. Appunto, no, sto dicendo quello. Uno può piacere, non piacere, però nella metafora sono lì che aspettano che le cose si vanno male, ma non è che agiscano proprio di conseguenza, non è che... Sì, adesso parla di una strategia, di un disegno, piano preordinato. Ma con chi ce l'ha? Con chi c'è? Con la CGIL? Cosa ridi, Robecchi? C'è un complotto e ride. C'è un complotto e ride. C'ho due motivi per ridere. Il primo è che, insomma, intanto quando si grida il complotto, bisogna dire chi sono i complottisti e chi lo fa il complotto. E quindi io vorrei sapere se oltre alla CGIL, la FIOM, nel complotto c'è anche Istat, Banca Italia, i malati di SLA, a cui sono stati tagliati 100 milioni dopo la doccia gelata di quest'estate, eccetera. Quindi vorrei sapere le dimensioni del complotto. E la seconda cosa è che l'unico tratto berlusconiano che mancava a Renzi era il vittimismo. E di questo lo ringraziavamo, invece da ieri c'è pure questo. Basta, proprio per te è come Berlusconi. Ma no, però comunque uno che fa la sua politica e ha delle difficoltà a farla, e alla prima difficoltà, peraltro prevedibile, tira fuori il complotto, chiamamelo tu in un altro modo. E poi vorrei aggiungere, non mi è sembrato ieri un discorso che abbassasse i toni. Ieri effettivamente si è tolto qualche... Ma con chi ce l'ha, Massimo, con la CGIL? No, principalmente con la CGIL, ma io ripeto, bisogna andare un po' oltre forse alle parole per capire che cosa c'è dietro, perché io penso che ci sia una strategia sconvolta da parte di Renzi, nel senso, non penso che sia solo nervosismo come ha detto la Camusso, è che probabilmente Renzi in questo momento sta cercando di accelerare al massimo su una scissione, forse sta tifando veramente per una scissione nel suo partito, che gli levi dalle scatole via dalle palle, un po' di zavorra, e che dimostri che poi alla fine il vincitore è lui, che sta con lui nel cuore del mainstream, e chi invece viene scaricato si riduce su un lato vendoliano. Non è male questa cosa. Robecchi, via dalle palle, cioè, via un po'. Non vorrei che prevedesse addirittura alle elezioni anticipate. Esatto, via dalle palle. Però suggerisco una visione un po' diversa, perché via dalle palle sempre, naturalmente, quello di default, diciamo, no? Però c'è un altro elemento, ed è questo, che Renzi naturalmente ha in mano i sondaggi, e secondo me, mentre tutti guardano a sinistra, cosa succede a sinistra nella grande prateria della sinistra, eccetera eccetera, Renzi, che è un passetto più in là, guarda invece a destra, e il suo timore è che se si vota nel 2018 la destra si riorganizza, sì, come dicono peraltro i sondaggi, con Salvini e la Meloni in recupero, e che quindi lui teme che in 3 anni di non avere più quell'elettorato a cui sta parlando in questo momento, che è l'elettorato di il ritorno di Salvini, che oggi non è l'apertura, era uno spot, non lo sapeva Robecchi, a meno che non si svegli alle 5 per leggere Libero, perché forse tu Robecchi ti svegli alle 5 per leggere. No, è su Libero, mi consentirete, ma è l'apertura di Libero, Salvini che viene intervistato e dice: mi prendo il centrodestra. Non è che ci voleva Libero per eccolo lì, figurarsi se il comunistone non doveva tirare la zampata. Senza aver letto Libero. Infatti. 24 mattino. Uè Milan, devi dire ai politici italiani perché non adottate un disoccupato, così vedete che significa campare con 500 euro al mese. È appena iniziato il mese di novembre e già abbiamo le anticipazioni del libro di Vespa. Ma io mi sono rotto, scusa l'espressione, tu hai capito? Ma come bisogna fare? Come fa a scrivere tutte queste cose? E poi la gente cretina che le compra, questa è la cosa brutta. Roma, Roma, Roma, l'unico grande amore hai dato a questo uomo e la tua squadra qua. A Milan, se non è bello questo inno, che bella, all'inno da Milan. Ma se in Italia i soldi si rubano i politici, come si può andare avanti? Si deve smantellare questa banda di ladri, sono ladri! Tutti quanti la mattina mettete la sveglia alle 6:29, perché dopo un minuto abbiamo il sorriso di Alino con 24 mattino. Vabbè, oggi la solita banda, la solita truppa di matti, Robecchi, che abbiamo imbarcato. Li abbraccio tutti. Tu lo compri il libro di Vespa? Io no, non ho tavoli da pareggiare, diciamo. Dai, cosa dici? Però posso dire una cosa, che io lo ringrazio perché mi fa sentire giovane. Cioè, ieri, guardando i telegiornali, tutti i telegiornali aprivano con un presidente del Consiglio che attaccava la sinistra dalle anticipazioni del libro di Vespa. E che male c'è? E quindi sembrava il 2010. Ecco appunto. Identico, c'è 4 anni di meno di colpo, mi sono sentito benissimo. Vabbè, c'è chi mi scrive: perché non parlate della pensione d'oro di Bonanni? Ma sono 3 giorni che abbiamo detto la pensione d'oro di Bonanni. Che dobbiamo dire, De Manzoni, sulla pensione d'oro di Bonanni? Basta, cioè. L'abbiamo detto, dire che è uno scandalo. Non è solo di Bonanni, purtroppo è una pratica molto invalsa. Soprattutto tra i sindacalisti che fanno carriera. Dai, dillo, di una cosa renziana, tra i sindacalisti. Tra i sindacalisti, è vero, Renzi non è che dica solo stronzate, purtroppo. Non solo. Vabbè, ma sentite qua, c'è Berlusconi, torna. Attenzione, perché siamo nella 79esima settimana decisiva per la riforma elettorale e pare che Berlusconi abbia detto così: volete la legge elettorale, l'accordo? Solo se mi rendete nuovamente candidabile. Eccolo qui, Berlusconi. Ma la soluzione a Milano nel processo Ruby e la decisione del TAR di Napoli di rinviare alla Corte Costituzionale la legge Severino, tanto per fare un esempio che ricordo, è quella legge che ha causato la mia ingiusta espulsione dal Senato, queste cose fanno sperare che dopo tanti mesi oscuri la giustizia possa prevalere sulla convenienza politica. Eccolo lì, Robecchi, torna. Bisogna sbrigarsi però, perché tra un po' parlarne con Verdini sarà un problema. Sì, effettivamente, Verdini rinviato a giudizio. Invece l'ora d'aria fanno l'ora di Italicum. No, dai, adesso il carcere non si augura a nessuno. Fai il bravo. Diciamo che anche in un'aula di giustizia durante un processo è difficile parlare di riforme istituzionali. De Manzoni è così, la zampatona di Robecchi su Berlusconi c'è sempre, vecchio comunistone. Dico ai miei figli: attenzione con chi andate, attenti alle cattive amicizie, e poi c'è uno che mi fa le riforme istituzionali. Eccolo lì, torniamo al vecchio discorso, De Manzoni, l'impresentabile. Io aspetterei almeno il processo, anche perché non mi sembra solidissima la base della P3, devo dire. Sì, anche perché non è il primo processo di Verdini, quindi ci sarà da aspettare. Sì, però dice De Manzoni, come scrivono anche un po' i giornali oggi, mi sembra un po' una banda di tre così millantatori, così almeno dice Verdini, ma poi insomma vedremo il processo, chi lo sa, ma mi interessava Berlusconi. De Manzoni, può tornare Berlusconi oppure, come scrivete voi, è Salvini ormai il centrodestra? Berlusconi non se n'è mai andato, per cui non è questione che torni o non torni. Mi meraviglio sempre della tenacia, dello spirito vitale di quest'uomo che non molla mai. Il futuro non può essere Berlusconi, questo è evidente. In prospettiva Berlusconi può avere un ruolo, ma il futuro del centrodestra io non penso che sarà ancora Berlusconi. Si stanno muovendo delle cose, non so se sarà Salvini, ma sicuramente la mossa di Salvini spacca qualcosa, cioè provocherà una serie di reazioni a catena, nelle quali io penso si produrrà qualcosa di buono, nel senso che si muove. Berlusconi ha avuto grandissimi meriti, però ha avuto anche il difetto di tenere bloccata la situazione. Non c'è mai stato un alter ego Berlusconi, ecco, per la prima volta forse sta emergendo nel centrodestra, e questo può solo essere positivo. Poi vedremo cosa succede, soprattutto quando ci saranno le elezioni. Però si può dire eppur si muove, caro Roberto. No, io sono d'accordo, sta succedendo qualcosa, leverei il di buono. Ah, ecco, vabbè, eccoli, va bene. Dai, vi lascio ai vostri complotti quotidiani, alle vostre colazioni, ai vostri lavori. Grazie a Massimo De Manzoni, vice direttore di Libero, e Alessandro Robecchi, grazie per essere stati con noi, alla prossima. Alino è il debosciato più grande che c'è, tu lo puoi trovare su Radio 24 dalle 6:30 alle 9. Volete dire la vostra? 02 4652 4492, chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 mattino. 02 4652 4492, e ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qua alle 8. Sì. Vabbè, ho capito quella roba lì. Tranquilli, non siete in ritardo di un'ora, vi stavate già scapicollando verso. Sono le 7:18, è il 18 che va fregato, sono le 7:18. Non è ritornata l'ora solare, l'ora legale, quella roba lì.

quello della carta costa, articolo più inutile scovato sui giornali oggi, vince Repubblica, che con mezza pagina va a intervistare Marco Rizzo, segretario del Partito Comunista, che ha messo dei manifesti a Roma che recitano così: viva la rivoluzione sovietica! E chi c'è dietro? Marco Rizzo, che viene intervistato e dice: io ripristino Lenin e Stalin. E mi si dirà: ma c'erano i gulag? Sì, ma bisogna storicizzare, perché il capitalismo è morto e ripartiamo da qui, dal mito della rivoluzione russa. Ma Marco Rizzo, ma Repubblica, ma chi se ne frega. 24 mattino. Non capisco, non serve. Perché improvvi a sanare? A chi suono che la famiglia sta tutta qua? A chi devo suonare? A quelli che stanno dentro. Che non la senti la musichetta? Stanno proprio occupato casa nostra. Allora, siccome paghiamo regolare affitto, vorremmo solo capire se abbiamo dei diritti oppure no. Ecco, tutta ma perché qua. Sta urlando lei? Non ho capito. Questa ma casa sua, qui. Tra l'altro le manco ce l'ha più casa sua, no? Quelli sono parassiti. Non vanno via qui. Vi volevo fare una proposta un po' strana. Quale sarebbe? Occupiamo il pianerottolo di casa nostra. Allora, questo è il trailer di un film, una commedia spassosa che io mi sono anche visto di recente, no? Tutti contro tutti, un film di Rolando Ravello in cui si parlava, si sorrideva, si scherzava di una vicenda che in realtà riguarda migliaia di persone in Italia, una vicenda drammatica e seria che recentemente è stata riportata a ribalta da un'inchiesta del Corriere della Sera. Pensate che solo a Milano ci sono 4.084 case popolari stabilmente occupate da inquilini che non sono coloro che hanno il diritto di stare in quella casa. Dall'inizio dell'anno, sempre a Milano, sono 1.300 i tentativi di occupare le case. Ogni tanto ce la fanno occuparle, ogni tanto finisce come? Con anche regolamenti di conti tra chi ha il legittimo inquilino di quella casa e riesce a respingere. Insomma, stile giungla. Ovviamente è nato anche un racket delle case occupate, c'è chi va a sfondare le porte approfittando del fatto che l'inquilino esca di casa e piazza dentro magari, che ne so, anche una donna incinta, e quindi, no, quando arrivano le forze dell'ordine, non sei incinta, non si può toccare. Ma insomma, lo Stato in tutto questo che fa? Sta a guardare? Certo, ora si promette: staccheremo le utenze, staccheremo la luce, il gas, manderemo la polizia, ma sembrano per il momento dichiarazioni che rimangono sulla carta. Vogliamo parlare di questo, il diritto alla casa, si dice sempre il diritto alla casa, e questo fenomeno che viene un po' relegato nelle periferie delle grandi città, ma che in realtà è sotto gli occhi di tutti noi e che il Corriere della Sera sta, a mio modo di vedere, meritoriamente portando nelle pagine, quelle che contano, le prime pagine del giornale. Saluto Andrea Galli, giornalista del Corriere della Sera, che insieme a Gianni Santucci sta facendo questa inchiesta. Andrea, buongiorno. Buongiorno. Così come voglio salutare una storia che raccontiamo, quella di Maria Lorenzi. Signora Lorenzi, buongiorno. Buongiorno. Allora, noi siamo partiti da un film e ci permetta se abbiamo utilizzato questo film, che lei però ha vissuto in prima persona, vero, non un film, una cosa vera. Lei, signora Lorenzi, è rimasta a dormire 21 giorni sul pianerottolo di casa perché era uscita ed è tornata e aveva trovato la sua casa occupata, è così? Sì, io di tanto in tanto tornavo a casa, andavo da mia madre perché ho una mamma anziana, mia mamma solo me, e non la posso lasciare sola. Lei non vuole spostarsi, è giusto anche che sia così, e quindi andavo da lei. E una bella mattina la mia vicina di casa mi ha detto: guarda Maria, corri che ti hanno occupato casa. Questo dove? A Roma? A Roma. In che zona? Zona Rebibbia. Rebibbia. Sulla di Burtina. Ma e lei che ha fatto? Cioè, ha deciso a questo punto di stare veramente... Beh, intanto è tornata. No, inizialmente, quando sono arrivata lì, mi sono sentita impotente. Ho trovato che avevano tolto il tamburo della chiave a cilindro europeo e aveva messo dentro questa donna con il bambino. Quindi sono andata dai carabinieri, dai vigili. E che le hanno detto? Che le hanno detto? Che mi hanno detto? Che comunque avrebbero messo tutto in mano a un giudice e il giudice. Avrebbero, ci sarebbe voluta del tempo. È chiaro. Allora, ascolti, lei me lo deve lasciar dire perché io sono stanca, vado a destra, vado a sinistra, voglio dire le cose. Ma purtroppo, allora, intanto le premetto che il signor nuovo inquilino aveva portato la residenza in casa mia. Cioè prima di entrare? Prima di entrare. Ma chi era questa persona? Lei la conosceva? Era una persona... Io di persona non la conoscevo, però nei dintorni la conoscevano e... Comunque è meglio lasciar perdere perché sono stata minacciata, sono stata denunciata. Allora, ho deciso di portarmi una sdraia e mettermi sul pianerottolo di casa. E questo signore usciva quando usciva al mattino? Magari... La signora non usciva perché dentro poteva stare solo la signora. Lui comunque... saliva e scendeva, faceva il comodo proprio. Io intanto che stavo fuori di casa sentivo che la signora impacchettava tutto, perché mentre io stavo sul pianerottolo loro dalla finestra hanno salito su casa centinaia di scatoloni. Hanno fatto il trasloco. Oh, allora sono andata dai carabinieri a dire, perché la signora mi ha fatto chiamare perché dice che aveva paura che io stavo là. Dico, ma scusate, io busso alla porta, lei sta impacchettando tutto, quella è roba mia. No, ma poi non, cioè, rendiamoci conto, è casa sua, cioè voglio dire, stiamo parlando di una casa, no, voglio dire, di uno che deve abbussare. No, ma però signora, stia con noi, perché c'è tempo tanto per raccontare la sua storia, ma a me pare già incredibile. Andrea Galli, Andrea, quante storie come quella della signora Maria tu hai raccolto col collega Santucci tra Milano in questo caso dove lavori tu, e raccontaci cosa vuol dire il racket delle case occupate. Ma guarda, siamo a livelli così estremi oramai a Milano. Io sono molto pessimista, non credo nemmeno agli annunci e al fatto che basti poi staccare, non dare la luce o l'acqua e il gas per risolvere il problema. Perché, per esempio, oggi abbiamo scritto degli ultimi episodi in ordine di tempo, che sono quelli del fine settimana, e tra sabato e domenica eravamo in via dei Predis, zona quartiere Sant'Ambrogio, periferia sud di Milano. Hanno tentato di occupare due appartamenti dove abitava la gente, quindi non più si cerca di entrare negli appartamenti sfitti e non assegnati, ma adesso si cerca anche di entrare negli appartamenti dove abitano le persone. Fortunatamente si sono svegliati e hanno respinto l'assalto, altrimenti magari si svegliavano e facevano quella... Cioè, ma capito, cioè, si sveglia, cioè, a respingere l'assalto, ma che è? Sì. Cioè, voglio dire, appunto, come dico io, la giungla, nel senso, cioè, che si fa? Bisogna far combattere per difendere la propria casa? Penso di sì, perché è diventato sicuramente un problema di ordine pubblico, però ovviamente polizia e carabinieri hanno a loro volta dei problemi quando si trovano dinanzi agli occupanti, che quasi sempre sono donne con 1, 2, 3, 4 bambini. Non saranno poi queste magari le persone che abiteranno lì, ma sono, diciamo, le figuranti, le persone che vengono mandate avanti per dire appunto che le forze dell'ordine arrivino e mandino via queste persone, perché dinanzi al neonato c'è ben poco da fare. Mettiamoci dentro anche il fatto che teoricamente i disfrattati dovrebbero andare nelle comunità, qualora, come in questi casi, sono donne con bambini minori, ma le comunità a Milano sono molto molto piene, anche perché c'è un'altra emergenza, che è quella dei migranti, dei richiedenti asilo. Sì. Fra poco ci saranno anche tutti i senza tetto che dovranno trovare una sistemazione. Quindi oggi, per esempio, l'ex prefetto di Milano, Gian Valerio Lombardi, che è il commissario della ALER, cioè gestisce le case, l'edilizia residenziale, l'edilizia popolare, dice noi di più non possiamo fare, è la polizia che deve sgomberare. Ma insomma, il solito rimpallo di responsabilità, per carità, ministro dell'Interno Alfano, poi lo sentiremo ieri a Canale 5, ha detto ora basta, situazione ma ora basta di che? Cioè, a me sembra che ora basta e poi è sempre uguale. O no? No, ripeto, non si può demandare tutto all'ordine pubblico, perché poi ovviamente nel momento in cui ci sono, girano per esempio le immagini di un poliziotto che insiste con una signora che piange col neonato, molti si vergognano della situazione, si lamentano, quindi chiamano il giornale, ci dicono una vergogna che si sfrattino le persone con i bambini piccoli, quindi tu dici vabbè, lo dobbiamo sfrattare o non lo dobbiamo sfrattare? Cioè, che dobbiamo fare. Vorrei dire ad Alberto da Ravenna che ci scrive: ma una rivisitazione del programma Oggi le comiche? Caro Alberto, capisco che magari riguarda le periferie nelle zone di città dove magari molti italiani non conoscono questa realtà, ma è la realtà che per esempio la signora Maria Lorenzi ci sta raccontando. Signora Maria, ma mi faccia capire, dopo 21 giorni lei poi spieghiamo bene i dettagli, ma come ha fatto a riprendere possesso della casa? Cioè, cosa è successo? Perché venivo continuamente minacciata. Siccome io non ero sola in macchina per 21 giorni, ha dormito mio genero per paura che mi potesse accadere qualcosa, quando hanno minacciato di picchiare mio genero, io mi sono sentita sola. Comunque nella vita bisogna comunque avere sempre un angelo custode, io penso che nella vita terrena ce l'ho. E tramite questo mio angelo custode abbiamo chiamato il giornale, dopodiché si è smosso mari e monti. Ma perché questo? Per arrivare all'autorità, perché bisogna andare in un giornale? In che giornale siete andati voi nello specifico? Mi sembra il Messaggero. Messaggero a Roma. Cioè lei dice, se non fossimo andati e se non fosse uscita questa storia sul Messaggero, le autorità che le dicevano? Il giudice? Allora, sono andata un giorno da Carabinieri e questo mi ha detto: ma signora, lei ci tiene tanto alle sue cose, le tolga. Dico, ma scusi, ma da lei da che parte sta? Anche perché come faceva a toglierle se c'era dentro qualcuno? No, ma perché che non le apriva porta? Da casa mia le mie cose. Ma perché? Andavo dai vigili, mi diceva che dovevo aspettare, che era tutto in mano al giudice. Invece, con la mattina è uscito l'articolo sul giornale, nel pomeriggio è venuto il vice sindaco in persona, l'assessore, comunque la signora non voleva aprire, dopo sono riuscita a farla aprire perché con il piccone stavano buttando giù la porta. Ed è riuscita così, insomma, con un'azione. Io all'assessore alla casa gli ho detto: assessore, gliela dia la casa. L'assessore mi ha detto: noi troveremo una sistemazione per la signora, però non vogliamo creare dei precedenti. Lei si prenda la sua casa e se la goda. No, ma ci mancherebbe. Io devo dire, ci scrivono, è disarmante, è incredibile. Andrea, c'è l'aspetto legale, ma voglio dire, dal punto di vista della legge, ovviamente ci sarà un reato per chi viola un domicilio. Cioè, non si può ricomporre tutto come ci scrivono molti ascoltatori, banalmente in "io occupo casa tua", arriva la polizia dopo 12 ore e mi dice: questa non è casa tua, vattene fuori. Ma non è facile perché... Tutto in mano al giudice. Sì, è il giudice, infatti, no. Andrea, dimmi, poi dopo... Non è facile, anche perché in assenza di flagranza di reato, quindi chiaramente risulta difficile pensare che le pattuglie girino per Milano sintonizzate sull'eventualità di un'occupazione in 3 minuti. In assenza di flagranza c'è la querela di parte, punto, è morta lì. Tu mi entri a casa mia, pranzi nel mio salotto e io vado a denunciare. No, ma tra l'altro io devo dire che molti messaggi, poi ripartiamo da qui dopo la pubblicità con Andrea Galli, con la signora Maria Lorenzi, racconteremo anche la storia di Giuseppe Viggiani che abbiamo contattato, l'abbiamo chiamato noi e sta in provincia di Matera. Questo per dire che non accadono queste cose anche solo nelle grandi città, come ci scrive Orlando da Civitavecchia, ci scrive: è accaduto anche a Civitavecchia. Ma voglio rispondere a tutti i messaggi che dicono ancora: sembra che parliate di fantarealtà, ma non è fantarealtà, ragazzi. 4.000 case occupate a Milano, solo a Milano, a Roma magari non lo so i dati, può darsi che siano anche di più, ed è questo secondo me il merito che da qualche giorno un giornale importante come il Corriere della Sera porti questa inchiesta proprio per farla scoprire. Avete sentito la signora Maria a dirci quando è uscita sul Messaggero la vicenda? Nel giro di 12 ore è arrivato il vice sindaco in persona e abbiamo risolto la situazione. Qualche volta insomma l'opinione pubblica si smuove anche così, no? Dopo la pubblicità rientriamo, se volete dire la vostra, 800 24 00 24. 4 mattino. Allora, stiamo parlando di questa vicenda delle case occupate in Italia, sono molte più di quanto si pensi. Ci scrive per esempio Andrea Zorza su Twitter: ma come, se io trovo uno a casa mia non posso buttarlo fuori? Davvero non capisco. Capisce signora Maria, c'è questa da parte di molti ascoltatori che ci stanno ascoltando, il non credere che possa essere realtà, invece è realtà che lei ha toccato con mano, lei come tanti italiani. La signora Maria Lorenzi, ricordiamo, è rimasta 21 giorni sul pianerottolo perché è tornata, è andata a trovare la mamma, è tornata, ha trovato la casa occupata. Ma siamo con Andrea Galli anche del Corriere della Sera, e Andrea ci chiede, un'ascoltatrice Elena Gianni sempre su Twitter, come ha fatto l'occupante a ottenere la residenza prima di entrare a Roma? Ecco, questo è quello che mi chiedo. Questo è quello che si chiede anche lei, signora Maria, ma insomma ed è legittima la domanda. Andrea, lo vogliamo dire prima di presentare un altro ospite, perché voi lo avete denunciato sul Corriere della Sera. Sì. Chi sono in genere quelli che occupano? Per esempio, ho visto che ci sono molti Rom, lo vogliamo dire? È razzista? Non è razzista? No, allora, sono, secondo, 75% sono stranieri, il resto italiani. Tra gli stranieri ci sono egiziani, romeni, sia Rom che Rom, e marocchini e anche peruviani. Quando poi si fanno dei focus, in particolare magari sui Rom, io stesso, ma me stesso, chiamano molto e dicono: ah, come al solito mettete in mezzo i Rom, eccetera, eccetera. In realtà è semplicemente un dato statistico, ed è anche una cosa che sta succedendo a Milano negli ultimi mesi, ovvero sia che si stanno facendo molti sgomberi, soprattutto nella periferia sud della città, di campi Rom abusivi, ma nel contempo molti Rom stanno prendendo casa, occupando abusivamente. E molti dicono: ma non è che c'è sotto un mezzo tacito accordo, istituzione Rom, perché per il quale si dica: io ti mando via da lì, tanto vai a occupare nel palazzo che posso. Sì, perché poi comunque le voci girano, e uno, io chiaramente non penso che sia così, però c'è sarebbe molto molto grave addirittura un accordo, sì, di questo tipo. Una trattativa. Allora, prima degli ascoltatori, che sono tanti, vorrei salutare Giuseppe Vigiani. Buongiorno signor Vigiani, lei è di Pisticci, in provincia di Matera. Buongiorno e benvenuto. Grazie, buongiorno a lei e a tutti i nostri ascoltatori. Allora, so che il comune ha assegnato a suo padre, tra l'altro gravemente malato, un alloggio, ma questo alloggio occupato da marzo da chi? Sì, è stato occupato da, diciamo così, da extracomunitarie. Diciamo, ma nel senso, sì, è stato assegnato, beh, insomma, non c'è nulla di male. Se sono marocchini, però sono, non vorrei entrare in... Voglio dire. Le spiego, giusto per togliere ogni dubbio. Pertanto io ho avuto un ragazzo marocchino a casa per 2 anni che ha curato mio papà, pertanto... Ma non c'è neanche bisogno di dirlo, io semplicemente gli ho chiesto da chi, nel senso, poteva dirmi una famiglia, so che è una famiglia con bambini, sono cittadini marocchini, ma voglio dire, il dato di fatto è questo, non è che... Sì, dove altri marocchini, ma lei ha fatto un'altra casa di distanza, non le piaceva perché era distante dal paese. E lei come fa? Cioè, lei riesce a far valere, forse il cellulare va un po' e viene, lei riesce a far valere i propri diritti? Al momento no, le autorità, lo Stato, i carabinieri, la polizia, il prefetto, il sindaco, che cosa le dicono? Guardi, la notte stessa che hanno occupato praticamente la casa, io ho parlato con il brigadiere e le avevo chiesto cortesemente se me la poteva, perché io lavorando non potevo intervenire subito. No, se non si preoccupi, domani mattina facciamo tutto, ma io già sapevo che non era, perché loro parlavano che c'erano dentro 2 minori e non potevano far nulla. Eccolo. Praticamente il maresciallo dei carabinieri, che in quel momento faceva il maresciallo, ma secondo me poteva fare tranquillamente l'assistente sociale, automaticamente ha dato disposizione che ci sono i minori, non si fa nulla, ci sono i minori. Ci sono i minori. Che non hanno chiesto. E infatti è da marzo che è così. Hanno occupato l'appartamento, si sono praticamente presi cose stesse, piatti, limoges, mobili che gli servivano, e quello che gli servivano sono rimasti dentro, gli altri li hanno buttati fuori il giorno dopo. Vabbè, casa, ricordiamo, come molti casi succede, casa del comune, ma assegnata con regolare, insomma, graduatoria, al padre del signor Vigiani. Vogliamo sentire anche, sono tanti Giuseppe oggi, Giuseppe da Napoli ci chiama. Giuseppe, buongiorno. Sì, buongiorno, chiedo scusa per la Claudio, sono in autobus. Nulla, nel mio caso l'ho vissuto sulla mia pelle e auguro a nessuno di trovarsi nella nostra condizione, perché non ci crede, perché la cosa brutta non solo è che ti possono occupare casa popolare, sì, ma anche casa normale. Un cittadino che ha comprato la casa con i propri risparmi si può trovare. Cioè, perché a voi, guardi, l'audio effettivamente è pessimo, cioè le hanno occupato casa di proprietà, vi hanno occupato? Io sono tornato di notte, avevo due bambine piccole nonché la moglie incinta, una persona che praticamente hanno sfondato la porta si è ritrovata dentro, accusando di essere incinta, facendo una piccola sceneggiata per un vomito che diciamo, ha fatto intervenire. Cioè voi avete lasciato la casa, ve l'hanno occupata, ma hanno sfondato la porta, e quando siamo tornati abbiamo trovato la bella sorpresa. La cosa più inquietante è che, come ha detto l'ascoltatore precedente, i carabinieri non sono potuti intervenire perché c'era i minori, c'erano i bambini. Quando hanno... Sì, ma i minori ce l'avevamo anche noi. No, è chiaro, no, lo chiedo, ma ci rendiamo conto? Ma Giuseppe, io sono basito, cioè Andrea, è un viaggio, io non lo so se voi eravate pronti come cronisti al Corriere a fare questo, cioè, un viaggio sembra quasi veramente nell'assurdo, che poi più scavi e più capisci che è più diffuso di quanto si pensi, no? Sì, ma anche perché poi chiaramente poi bisogna starci nella quotidianità, perché poi ci sono ovviamente un sacco di persone che denunciano, che fanno casino, che protestano, però ci sono anche situazioni dove una signora, in particolare una nostra amica a quale ci siamo legati, ha iniziato a protestare, a denunciare contro gli abusivi. Ogni mattina questi scendevano perché stavano piano di sopra e facevano tutti i bisogni sullo zerbino, quindi questa si alzava ogni mattina e c'era il regalo. Magari non, cioè, sono cose talmente bizzarre. Ma è chiaro, ma cosa succede? Ma è chiaro, ma da laddove lo Stato non c'è, e poi c'è la giungla. È ovvio, sì. se non c'è una risposta dalle autorità, poi uno che fa, come quelli che mi scrivono, io non vado dallo Stato, dai carabinieri, dai vigili urbani, io me la vedo da solo, veditela da solo. Esatto. E sentite ieri, per esempio, cosa ha detto Alfano, intervistato a Maurizio Belpietro su Canale 5, proprio la domanda: ma com'è possibile che ci siano le case occupate? Sentite Alfano. Questo è del tutto inaccettabile e noi siamo pronti ad intervenire, ed è per questo che noi faremo fino in fondo quello che c'è da fare, perché è una situazione inaccettabile. Al tempo stesso il Comune e la Regione decidano sui requisiti che ci sono nelle singole città per definire un soggetto moroso incolpevole, per individuare le unità abitative da sgomberare. Vabbè, qui la solita cosa un po' cerchio bottista. Insomma, se uno sta alle frasi di Alfano, ministro dell'Interno, interverremo, vuol dire che domani nelle 4.000 case di Milano, nella casa del signor Viggiani, la signora Maria Lorenzi, per il momento la situazione l'ha risolta, nel senso che è tornata nella casa, ma in tutte le case occupate si presentano i carabinieri, polizia o l'esercito, qualcuno fa sgomberare, o non so. Maria Lorenzi, lei si aspetta, la sua situazione è migliorata, però so che in realtà minacce, fastidi, certo. ne ha continuamente, certo, in continuazione. Ma allora io dico, ma per quale motivo, se io sono assegnataria di un alloggio, posso assentarmi per qualsiasi motivo? Ma certo, devo vivere con il terrore. Allora, io non sono padrona di uscire di casa e chiudere tapparelle, porta, no, devo lasciare le tapparelle aperte, panni stesi, in modo che... Far vedere casa, che è in casa, far vedere che è in casa. Deve... Accendere le luci, ma per quale motivo? No, ma ci rendiamo conto, cioè la questione è questa. Signor Viggiani, lei che ha sentito il ministro dell'Interno, si aspetta che domani i carabinieri partano dalla caserma del paese che ci sarà, non lo so, e vadano a sgomberare casa? Non penso proprio, perché comunque dopo 7 mesi è tutto in mano alla magistratura, perché poi noi non possiamo fare più nulla. Una volta denunciato il tutto, parte e le carte vanno in magistratura. Poi i magistrati chissà quando le leggeranno, comunque, perché hanno, per la verità, probabilmente ben altro, chissà quanti fascicoli, ben altro da fare. Comunque volevo dire che nel mio caso è già una volta. Il cellulare va bene, ho capito bene che è la seconda volta? Sì, è la seconda volta. La prima volta 2 anni fa ho trovato, comunque avevano gli attributi e sono riusciti a, compreso... No, chi è andato via? Chi è andata via un po' la linea? Alle 6, no, certo. A poter... Ma ci sentiamo poco, il cellulare. No, vabbè, ma è emblematico anche come conclusione, Andrea Galli, no? Cioè, ha trovato qualcuno che aveva gli attributi, ma dove siamo? Ma dove no, siamo? No, anche perché la situazione è ulteriore. Io credo poco, come dicevo all'inizio, alle promesse e alle garanzie. La situazione è in continuo peggioramento, anche perché stanno aumentando, diciamo, gli abusivi potenziali, quelli che magari 2 anni fa non sarebbero andati a occupare, ma adesso per la crisi, perché hanno perso il lavoro, 100.000 altri motivi, dicono vabbè, chi se ne frega, tanto occupano tutti, vado a occupare anch'io. E quindi la situazione è a rischio di qualcosa di molto molto peggio. No, ma è chiaro che socialmente possa implodere, e speriamo di no. Però io dico complimenti, continuate a scrivere complimenti, insomma, ma non lo devo fare io, ma che è giusto che sia così, e continuate a denunciare sul Corriere della Sera, e come anche altri giornalisti stanno facendo, le Iene stanno facendo servizi da anni su questo. Ringrazio Andrea Galli del Corriere della Sera, così come Giuseppe Viggiani da Pisticci Matera e la signora Maria Lorenzi, Roma. Torneremo su questa vicenda. Dopo il traffico, invece, abbiamo già in linea il sindaco di Trento, che saluto, Alessandro Andreatta. Buongiorno, sindaco, tra un attimo sono da lei dopo il traffico. 24 mattina. Allora, siamo con Alessandro Andreatta, sindaco di Trento, Partito Democratico. Sindaco, lei è vero che si sono presentate 2 coppie di persone omosessuali che sono sposate all'estero, volevano registrare il proprio matrimonio al comune? Sì, è vero, naturalmente io le ho accolte, abbiamo dialogato per un'ora, oltre un'ora, e ho semplicemente detto che la trascrizione del loro matrimonio celebrato all'estero tra persone dello stesso sesso non è possibile. Io credo che un sindaco debba rispettare la legge attuale. Questo non vuol dire che un sindaco, poi interpretando la sua comunità, non possa avere e farsi un'idea della questione. L'idea che mi sono fatto io è che sarebbe importante percorrere la strada di altri stati europei, anche importanti come la Germania, l'Austria e tanti altri, ed andare verso una legge delle unioni civili. Quindi lei auspica questa legge, ma fin quanto questa legge non c'è... Assolutamente sì, ma io credo che nella mia comunità non ci sia dubbio sul fare una legge. Ho visto che il Presidente Renzi l'ha promesso, ho visto che giustamente il Presidente dell'ANCI, dei comuni italiani, Fassino, insiste, siamo 8.000 comuni, qui non è che uno può dire una cosa, uno un altro, soprattutto senza una legge, bisogna che sia il Parlamento a muoversi. Io auspico questa legge perché credo che i miei cittadini capiscano che quando si parla di reversibilità della pensione, di diritto di successione, di partecipare ai bandi per case popolari o altro, di assistenza in ospedale, anche di reversibilità dell'alloggio, tutte cose che in queste leggi e di alcuni stati europei sono previste, che su questo si debba ragionare e si debba prevedere questa possibilità. Però, sindaco, le chiedo, ha fatto un po' rumore il fatto che lei sia un sindaco di un Partito Democratico, come sa, colleghi, suoi colleghi dello stesso partito in altre città invece sfidano addirittura i prefetti che vogliono cancellare queste registrazioni. Io so benissimo che c'è questa posizione, io sono per una posizione invece più rispettosa della legge, ma anche più ordinata. Credo che bisogna fare insieme, per questo mi è piaciuto quello che ha detto Fassino. Io scriverò a lui, anche perché sappia che il Comune di Trento è d'accordo con lui nel fare pressione sul governo perché faccia presto questa legge. Se invece lei mi spinge a un discorso culturale o ideale, le dico che per me questa è la soluzione che sento più, non tanto vicino a me, ma che interpreta meglio la città. Ma quindi voglio dire, sono di un partito, ma sono espressione di una coalizione e ascoltano la città. Sì. Credo che la mia città ci sia su questa ipotesi, non ci sia su altre. Però non so, per esempio il sindaco di Bologna che noi avevamo avuto, cosa fa? Sbaglia secondo lei? Cioè si spinge un po' troppo oltre a dire... Ma guardi, io ho capito che c'è questo valore simbolico che anche... omosessuali, arcigay, chiedono, però io credo che gli atti devono essere atti chiari, veri, iniziative simboliche sono tante volte importanti, ma non bisogna prendersi in giro però, quindi registrare sapendo che non c'è alcun beneficio, alcuna conseguenza concreta per le persone, io non sono abituato a fare così, preferisco battermi per una legge che poi arriva, e del resto qui in provincia è stata sospesa adesso e mi è dispiaciuto, ma c'è una discussione su una legge anti-omofobia che mi sembra molto buona, molto importante, purtroppo si discute troppo a lungo, spero che venga approvata. Insomma, lei auspica questo come percorso, per concludere ci sono rimaste male queste due coppie, accompagnate tra l'altro dal presidente dell'Arcigay Trentini. Ma io credo che un po' di delusione ci sia stata, abbiamo però parlato molto civilmente, ci siamo ascoltati, io ho detto chiaramente che per questi diritti, che Lei c'è, però dopo, solo dopo un percorso istituzionale, sì, però, un percorso parlamentare. Credo che i comuni hanno una grande forza sul governo se sono compatti, quindi io scriverò davvero a Fassino, ma insomma lo incontro poi ogni tanto anche a Roma. Per quanto riguarda gli incontri dei sindaci, vedremo di accelerare. Punterà a questo. Che almeno i comuni questo. Facciano la loro parte. Io intanto la ringrazio, è stato grazie con noi il sindaco di Trento, mille. Alessandro Andreatta del Partito Democratico, che ci ha spiegato perché lui le nozze gay non le registra nel proprio comune. Questo incontrando due coppie di omosessuali che sono sposati all'estero, volevano la trascrizione. Allora ci fermiamo qui con Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli in redazione e il nostro alpino Peter Bescapè in regia. L'appuntamento è come sempre rinnovato domani alle 6.30, potete anche scriverci, torneremo su questa cosa delle case occupate, perché è un viaggio nell'incredibile, nel surreale ma molto reale italiano. Potete scriverci a 24mattino@radio24.it oppure a me alessandro.milan@radio24.it oppure su Twitter anche Alino Milan, quello è il mio profilo. Come sempre, ci manca solo che ci dormiate sullo zerbino, per l'appunto. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica.